Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Torniamo a parlare di prevenzione del dissesto idrogeologico dopo la cronaca di questi giorni che ci racconta di un paese ad alto rischio e segnala anche l'urgenza di agire. Quando parliamo di città intelligenti, infatti, è evidente che non possiamo prescindere dalla capacità di prevenire episodi come quello a cui sono andati incontro in questi giorni Orbetello e Albinia. Sulla stampa di martedì c'era però una mappa del dissesto idrogeologico secondo la quale circa il 10% del territorio è a rischio frana oppure alluvione oppure valanga. Ma per un verso dell'altro questo 10% finisce per interessare quasi tutti i comuni italiani. Allora, che cosa fare? Manutenzione anzitutto, tenere libere le vie di deflusso dell'acqua, i canali, gli scoli, la rete fognaria. Ma la sensazione è che questo non sia e tantomeno in futuro sarà più sufficiente. Che insomma si debba fare qualcosa di più. Ne parliamo con Roberto Francese, ricercatore dell'OGS, l'Istituto di Oceanografia e Geofisica Sperimentale. Benvenuto Francese. Sì, buonasera a tutti, grazie, buonasera. Ecco dunque, se pensiamo agli eventi di questi giorni, non abbiamo visto argini che cedevano o colline che sono franate, eppure diversi paesi sono finiti sott'acqua. È proprio come se il territorio strutturalmente non fosse in grado di assorbire questa quantità di acqua. Che cosa è successo? Ma diciamo quello che si è visto un po' negli ultimi anni in diversi episodi di alluvione, si osserva che c'è una certa rigidità del territorio, intesa come capacità del territorio di assorbire le quantità d'acqua che riceve durante le precipitazioni. Il territorio è rigido e pertanto molto cementificato e pertanto l'acqua rapidamente, dal momento in cui tocca terra, entra nella rete di sgrondo, nella rete di fiumi e canali, senza l'effetto di assorbimento, l'effetto di spugna del terreno, e questo determina un rapido convogliamento delle acque e quindi una montata di ondate di piena che rispetto agli anni scorsi avviene con più facilità. E a questo si aggiunge anche il fatto che io non sono un meteorologo, però quello che si osserva è che sembra che ci sia una sorta di cambiamento del regime delle precipitazioni che tendono ad essere brevi e molto concentrate, quindi mettendo sotto stress il sistema idraulico di allontanamento delle acque, insomma. Ebbene, allora, che cosa si può fare? Perché la manutenzione, evidentemente, e la prevenzione, invocati e poco praticati entrambi, diciamo, sicuramente sono importanti, ma difficilmente risolvono un problema di carattere strutturale. È evidente che noi non possiamo più consentire che vengano fatte nuove costruzioni in aree a rischio di alluvione, però ci sono milioni già di costruzioni in aree di questo genere. Allora, la domanda a cui vogliamo rispondere questa sera è un po' questa. Che possibilità ci sono di intervenire su zone in cui ci sono ormai, come dire, dei problemi strutturali? Se il problema è la cementificazione di un'intera area, che cosa si può fare? Allora, non potendo ovviamente demolire i fabbricati e restituire ai fiumi lo spazio che gli è necessario per gestire le fasi di piena. Che idealmente sarebbe la cosa migliore da fare, mi pare di capire. Non è possibile, alle volte attraversano i corsi d'acqua, attraversano le città, quindi in quel caso non si può fare ovviamente nulla. Quello che possiamo fare, dobbiamo cercare sicuramente di mantenere, come ha detto lei all'inizio, i fiumi puliti, nel senso specialmente quando le piene continuano a portare materiale in alveo, l'alveo si alza e quindi si riduce la capacità di invaso. Quindi bisogna dragare il fondo dei fiumi, primo. Ci sono alcuni fiumi che gli alvei si sono riempiti con gli anni, quindi hanno una minore capacità di smaltimento dell'acqua, questo è un aspetto. Il secondo aspetto è quello eventualmente di fare dello spazio consentendo di stoccare temporaneamente una quantità d'acqua che arriva durante la piena. Questo viene fatto in certe aree con dei meccanismi noti come le casse di espansione, cioè si trovano delle aree dove non ci siano insediamenti, dove non ci siano case, dove non ci siano, diciamo, delle strutture che possono soffrire, si creano delle grandi vasche. Sì. E una parte della piena, tecnicamente si dice la laminazione della piena, la piena viene laminata allagando queste cioè, diciamo, se il fiume rischia di esondare, si fa in modo che esondi lì, in una zona in cui non fa troppi danni. Certo, sostanzialmente questo si fa per i grandi fiumi, per esempio, cioè, diciamo, il Po ha le sue casse di espansione in certe aree in mezzo alla campagna dove non crea particolari problemi. E diciamo, l'esondazione viene controllata, almeno che si può controllare, allagando queste zone. Questa è una possibilità che, da quello che capisco, potrebbe essere, diciamo, praticata un po' più spesso. È così? Potrebbe essere praticata ove le condizioni ambientali consentono di realizzare le casse delle casse di espansione, però certo, questo non è sempre semplice, anche perché questo spesso suscita dei malumori e delle proteste, nel senso che chi vive intorno alle aree che vengono scelte come luogo dove costruire delle casse di espansione magari manifesta qualche malessere, ecco, non è particolarmente contento di questa cosa. Ecco, se beh, posso immaginare. Ecco, dunque, quest'anno è stato il turno della Toscana, purtroppo l'anno scorso è stata Genova a essere colpita da delle precipitazioni, Genova e dintorni, molto violente. Ecco, una situazione come Genova è una situazione davvero difficile da risolvere. Ma Genova è ospitata su una, diciamo, alla zona in cui una serie di fiumi che vengono dalle colline pretostanti sfociano in mare. Mm. Genova progressivamente nella sua crescita ha ridotto sempre di più gli alvei di questi fiumi, riducendoli a dei canali e poi dei canali sotterranei e quindi diminuendo la capacità di questi fiumi di portare l'acqua al mare. Quindi è la stessa città che crea una sorta di sbarramento nei confronti di questi fiumi. Eh sì, praticamente la città che è allungata sulla costa è una specie di diga rispetto a tutte le acque che provengono dalle colline alle spalle di Genova. Esattamente, esattamente. Si può proprio immaginarla così, una sorta di diga con qualche foro che consente il passaggio dell'acqua. Un po' strettino. Tuttavia, in condizioni super critiche, questi fori non sono sufficienti a far defluire tutta l'acqua. Ecco, in una situazione del genere che cosa si può fare, per esempio? Una situazione del genere è abbastanza difficile, diciamo che la si può risolvere non con un piano di pochi anni, ma con un piano che abbia una visione un pochino più lunga, nel senso immaginare che certi percorsi devono rimanere assolutamente sgombri, quindi immaginare che forse anche abbattere qualche casa. Qualche casa, perché non le abbatta molte di più il fiume qualche anno dopo. Creare qualche sistema di bypass, per esempio. Quindi dei tubi che passano sotto alla città, prelevano l'acqua dalle colline, mi sembra un'opera faraonica però. Un'opera non semplice, però potrebbe essere risolto qualche nodo locale in questo modo, qualche piccolo aggiramento di situazioni di collo di bottiglia, insomma. E se no, case galleggianti per tutti, cosa ne dice Francese? Potrebbe essere questa la soluzione? Ci avviamo verso un mondo in cui l'acqua del mare si alza. Grazie Francese. Va bene, buonasera.